L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino. Musiche di Bruno Nicolai. Regia di Nanni De Stefani. Diciottesima puntata. Rodomonte, Orlando pazzo, Angelica. Lettura poetica di Arnoldo Foà. Narratore Gianni Bonagura. Rodomonte è un colosso dall'anima sensibile. Non ha paura di nessuno al mondo. La sua forza e tracotanza lo rendono invincibile, ma le donne si fan gioco di lui e la sua mortificazione non ha limiti. Doralice, preferendo Mandricardo a lui, gli ha aperto una ferita immedicabile nel cuore. E Isabella, che lo inganna per farsi uccidere, sconvolge talmente la sua scala dei valori che da quel momento la sua vita è votata a un compito assurdo e sublime: onorare la tomba della giovane che gli ha scioccamente trucidato. Su di un fiume profondo costruisce un mausoleo, al di là d'uno stretto ponte. Egli si batterà contro ogni cavaliere che vorrà passare il ponte, lo vincerà e appenderà le armi in trofeo sulla tomba di Isabella. Un giorno sul ponte si presenta non un guerriero a cavallo, ma un uomo nudo e scarmigliato e ossesso. È Orlando. Quel campione d'ogni virtù, ora sconvolto dalla più fosca pazzia, si trova faccia a faccia col campione d'ogni arroganza, ora invasato dall'ansia del sublime. Una qualità è rimasta intatta in entrambi, ed è la forza. S'azzuffano sul ponte e finiscono in acqua tutti e due. Rodomonte, gravato dall'armatura, fatica a tenersi a galla. Orlando, nudo, nuota a riva e riprende il suo cammino come se non si fosse accorto di niente. In 10 giorni e in manco fu perfetta l'opera del ponticel che passa il fiume, ma non fu già il sepolcro così in fretta, né la torre condotta al suo cacume. Pur fu levata sì ch'alla veletta starvi in cima una guardia avea costume, che d'ogni cavalier che venia al ponte col corno facea segno a Rodomonte, e quel s'armava, e se gli venia a opporre ora sull'una ora sull'altra riva, che se il guerrier venia di ver la torre, sull'altra proda il re d'Alger veniva. Il ponticello è il campo ove si corre, e se il destrier poco del segno usciva, cadea nel fiume ch'alto era e profondo, ugual periglio a quel non avea il mondo. Aveasi immaginato il saracino che, per gir spesso a rischio di cadere dal ponticel nel fiume a capo chino, dove gli converria molt'acqua bere, del fallo a che l'indusse il troppo vino, dovesse netto e mondo rimanere, come l'acqua non men che il vino estingua l'error che fa pel vino o mano o lingua. Molti fra pochi dì vi capitaro. Alcuni la via dritta vi condusse, ch'a quei che verso Italia o Spagna andaro, altra non era che più trita fusse. Altri l'ardire, e più che vita caro, l'onore, a far di sé prova indusse. E tutti, ove acquistar credean la palma, lasciavan l'arme, e molti insieme l'alma. Di quelli che abbattea, s'eran pagani, si contentava d'aver spoglie ed armi, e di chi prima furo, i nomi piani vi facea sopra, e sospendeale ai marmi. Ma ritenea in prigion tutti i cristiani, e che in Alger poi li mandasse parmi. Finita ancor non era l'opera, quando vi venne a capitare il pazzo Orlando. A caso venne il furioso conte a capitar su questa gran riviera, dove, com'io vi dico, Rodomonte fare in fretta facea, né finito era la torre né il sepolcro e appena il ponte. E di tutte arme, fuor che di visiera, a quell'ora il pagan si trovò in punto, corlando al fiume e al ponte è sopraggiunto. Orlando, come il suo furor lo caccia, salta la sbarra e sopra il ponte corre. Ma Rodomonte, con turbata faccia, a piè, com'era innanzi alla gran torre, gli grida di lontano e gli minaccia, né se gli degna con la spada opporre. Indiscreto villan, ferma le piante, temerario, importuno ed arrogante. Sol per signori e cavalieri è fatto il ponte, non per te, bestia balorda. Orlando, che era in gran pensier distratto, vien pure innanzi e fa l'orecchia sorda. «Bisogna ch'io gastighi questo matto», disse il pagano, e con la voglia ingorda venia per traboccarlo giù nell'onda, non pensando trovar chi gli risponda. In questo tempo una gentil donzella, per passar sovra il ponte, al fiume arriva, leggiadramente ornata in viso bella e nei sembianti accortamente schiva. Era, se vi ricorda, signor, quella che per ogni altra via cercando giva di brandimarte il suo amator vestigi, fuor che dov'era, dentro da Parigi. Nell'arrivar di Fiordiligi al ponte, che così la donzella nomata era, Orlando s'attaccò con Rodomonte che lo voleva gittar nella riviera. La donna, ch'avea pratica del conte, subito ne ebbe conoscenza vera e restò d'alta meraviglia piena della follia che così nudo il mena. Fermasi a riguardar che fine avere debba il furor dei duo tanto possenti. Per far del ponte l'un l'altro cadere, a por tutta lor forza sono intenti. Com'è ch'un pazzo debba sì valere, seco il fiero pagan dice tra denti. E qua e là si volge e si raggira, pieno di sdegno e di superbia, e dira. Con l'una e l'altra man va ricercando far nuova presa, ove il suo meglio vede, or tra le gambe, or fuor gli pone, quando con arte il destro e quando il manco piede. Simiglia Rodomonte intorno a Orlando lo stolido orso che sveller si crede l'arbor onde è caduto e come n'abbia quello ogni colpa odio gli porta e rabbia. Orlando che l'ingegno avea sommerso io non so dove e sol la forza usava, l'estrema forza a cui per l'universo nessuno o raro paragon si dava, cader del ponte si lasciò riverso col pagano abbracciato come stava. Cadon nel fiume e vanno al fondo insieme. Ne salta in aria l'onda e il lito geme. L'acqua gli fece distaccare in fretta. Orlando è nudo e nuota come un pesce. Di qua le braccia e di là i piedi getta e viene a proda. E come di fuori esce correndo va, né per mirare aspetta se in biasmo o in loda questo gli riesce. Ma il pagan che dall'arme era impedito tornò più tardo e con più affanno al lito. Sicuramente Fiordiligi intanto aveva passato il ponte e la riviera e guardato il sepolcro in ogni canto se del suo brandimarte insegna vera, poiché né l'arme sue vede né il manto di ritrovarlo in altra parte spera. Ma ritorniamo a ragionare del conte che lascia dietro e torre e fiume e ponte. La vita d'Orlando ormai è un rotto succedersi di sensazioni, senza più un filo che le colleghi. Se fosse solo, si perderebbe nel caos della natura bruta. Ma la sua assenza dal campo di Carlo Magno non è un fatto che possa passare inosservato. Già l'allarme per la sua scomparsa si diffonde e, primo fra tutti, il suo fedele amico Brandimarte si è posto a inseguirlo. Alla ricerca di Brandimarte parte a sua volta la fedele sposa Fiordiligi, come colta da un tristo presentimento. È appunto Fiordiligi, la trepidante figura femminile che ogni tanto compare sulle tracce del pazzo. È lei, la sola che, avendolo visto impazzire, può garantire che quell'irriconoscibile corpo, in preda ad impulsi insensati, è quello stesso in cui un tempo albergava il senno d'Orlando. Il pazzo va a zigzag per fiumi e selve, dal Rodano ai Pirenei, e se un somaro gli capita tra le mani, lui lo scaglia in aria mulinandolo per una zampa, e se acchiappa un boscaiolo lo strappa in due pezzi come fosse carta. Giunto sulla spiaggia di Tarragona, per ripararsi dal sole si scava una tana nell'arena e ci fica dentro la testa come uno struzzo. Una bella donna in ricche vesti se ne veniva al trotto in riva al mare. Il suo cavallo, una puledra, inciampa nell'uomo nudo e orrendo che balza dalla sabbia. Il cavallo si imbizzarrisce. La bella amazzone dà un grido. L'incontro che stavamo aspettando dall'inizio del poema, ecco, è avvenuto. Orlando si trova di fronte ad Angelica. È il momento fatale. Ma i protagonisti non se ne rendono conto. I due non si riconoscono. E come potrebbe Angelica ravvisare in quell'energumeno dalla pelle nera, in quella faccia da teschio, in quella barba e chioma piena di foglie secche e d'alghe marine, il capitano dalla risplendente armatura che per lei è sempre stato Orlando? E quanto a Orlando, Angelica è solo un baluginare di colori in movimento, seducente, sì, ma come un riflesso del sole su un ruscello o il dispiegarsi della coda d'un pavone. Medoro, che seguiva Angelica dappresso, al vedere il selvaggio che rincorre la sua sposa, cerca di travolgerlo sotto gli zoccoli del suo cavallo e sotto i fendenti della sua spada. Ma Orlando, da pazzo, aveva la pelle ancor più dura che da sano. Si volta come chi si sente toccare con due dita su una spalla e nel girarsi urta il muso del cavallo di Medoro con un pugno. il cavallo cade come avesse la spina dorsale di vetro. Angelica corre per la spiaggia inseguita dal matto, lei sulla sua puledra, lui a piedi ma coi suoi passi da cavallo. Orlando spicca un salto, sta per afferrare la puledra per la coda. Angelica si ricorda in quel momento dell'anello magico che ha al dito, lo ficca sotto la lingua e diventa invisibile. Un momento prima che la principessa del Catai sparisca definitivamente alla nostra vista, la puledra, presa per la coda, inciampa. Angelica vola via di sella e finisce giù nel sabbione a gambe all'aria. Questa è l'ultima immagine che ci resta dell'irresistibile seduttrice. Orlando ha preso per la coda la puledra. Per lui, puledra o principessa, ora è lo stesso. Salta in arcioni e tanto la fa correre e digiunare e precipitare in burroni che la uccide. E ancora se ne trascina dietro la carogna per le briglie, dicendole «Dai, cammina!». Nella cieca pazzia d'Orlando, balugina come un'ostinazione di vendetta contro la donna che l'ha ridotto in quello stato. O è una vampata di rancore d'Ariosto verso il sesso gentile. Il poeta se ne rende subito conto e se ne scusa con le amiche. I suoi assalti di misoginia sono sempre passeggeri. Svanita Angelica, finiti gli strazi della puledra espiatoria, Orlando si inabissa al galoppo nello stretto di Gibilterra e riemerge a nuoto sulla costa del Marocco. Pazzia sarà, se le pazzie d'Orlando prometto raccontarvi ad una, che tante, tante fur, ch'io non so quando finir, ma ve ne andrò scegliendo alcuna solenne e tatta da narrar cantando, e che all'istoria mi parrà opportuna, né quella tacerò miracolosa che fu nei Pirenei sopra Tolosa. Trascorso avea molto paese il conte, come dal grave suo furor fu spinto, e tal fin capitò sopra quel monte per cui dal Franco è il Tarracon distinto, tenendo tuttavia volta la fronte verso là dove il sol ne viene estinto, e quivi giunse in un angusto calle che pendea sopra una profonda valle. Si vennero a incontrar con esso, al varco, due boscherecci giovani, chinante avean di legna un loro asino carco, e perché ben s'accorsero al sembiante ch'avea di cervel sano il capo scarco, gli gridano con voce minacciante che addietro o da parte se ne vada e che si levi di mezzo la strada. Orlando non risponde altro a quel detto, se non che con furor tira d'un piede e giunge appunto l'asino nel petto con quella forza che tutte altre eccede. E talto il leva sì ch'un augelletto che voli in aria sembra a chi lo vede. Quel va a cadere alla cima d'un colle cun miglio oltre la valle il giogo estolle. Indi verso i due giovani s'aventa, dei quali un più che senno ebbe avventura che dalla balza che due volte 30 braccia cadea si gittò per paura. A mezzo il tratto trovò molle e lenta una macchia di rubi e di verzura a cui bastò graffiargli un poco il volto. Del resto lo mandò libero e sciolto. L'altro s'attacca ad un scheggion c'usciva fuor della roccia per salirvi sopra, perché si spera, s'alla cima arriva, di trovar via che dal pazzo lo copra. Ma quel nei piedi, che non vuol che viva, lo piglia, mentre di salir s'adopra, e quanto più sbarrar puote le braccia, le sbarra sì chi in due pezzi lo straccia. A quella guisa che veggianta l'ora, farsi d'uno aeron, farsi d'un pollo, quando si vuol delle calde interiora che falcone o castor resti satollo. Quanto è bene accaduto che non muora, quel che fu a rischio di fiaccarsi il collo, ad altri poi questo miracol disse, sicché l'udì Turpino e a noi lo scrisse. E queste ed altre assai cose stupende fece nel traversar della montagna. Dopo molto cercare, al fin discende verso Merigge, alla terra di Spagna, e lungo la marina il camin prende, che intorno a Tarracona il lito bagna. E come vuol la furia che lo mena, pensa farsi uno albergo in quella arena, dove dal sole alquanto si ricopra, e nel sabbion si caccia, arrido e trito. Stando così, gli venne a caso sopra Angelica la bella e il suo marito, che erano, siccome io vi narrai di sopra, scesi dai monti in sull'ispano lito. A men d'un braccio ella gli giunse appresso, perché non s'era accorta ancora d'esso. Che fosse Orlando nulla le soviene, troppo è diverso da quel che esser suole. Da indi in qua che quel furor lo tiene, è sempre andato nudo all'ombra e al sole. se fosse nato alla Prica Siene, o dove ammone il garamante Cole, o presso ai monti onde il gran Nilo spiccia, non dovrebbe la carne aver più arsiccia. Quasi ascosi avea gli occhi nella testa, la faccia macra e come un osso asciutta, la chioma rabbuffata, orrida e mesta, la barba folta, spaventosa e brutta. Non più a vederlo, Angelica fu presta che fosse a ritornar tremando tutta tremando e empiendo il ciel di grida, si volse per aiuto alla sua guida. Come di lei si accorse Orlando stolto, per ritenerla si levò di botto, così gli piacque il delicato volto, così ne venne immantinente giotto. D'averla amata e riverita molto, ogni ricordo era in lui guasto e rotto. Gli corre dietro e tien quella maniera che terria il cane a seguitar la fera. Il giovin che il pazzo seguir vede la donna sua, gli urta il cavallo addosso e tutta un tempo lo percuote e fiede, come lo trova che gli volta il dosso. Spiccar dal busto il capo se gli crede, ma alla pelle trovò dura come osso, anzi via più cacciar, corlando nato impenetrabile era ed affatato. Come Orlando sentì battersi dietro, girossi, e nel girare il pugno strinse, e con la forza che passa ogni metro, ferì il destrier che il saracino spinse. Ferì sul capo, e come fosse vetro, lo spezzò sì, che quel cavallo estinse, e rivoltosse in un medesimo istante dietro a colei che gli fuggiva inante. Caccia Angelica in fretta la giumenta, e con sferza e con spron tocca e ritocca, che le parrebbe a quel bisogno lenta, se ben volasse più che stralda cocca. Dell'annel che nel dito si ramenta che può salvarla, e se lo getta in bocca, e l'annel, che non perde il suo costume, la fa sparir come ad un soffio il lume. O fosse la paura, o che pigliasse tanto disconcio nel mutar l'annello, oppur che la giumenta traboccasse, che non posso affermar questo né quello, nel medesimo momento che si trasse l'annello in bocca e celò il viso bello, levò le gambe, t'uscì dell'arcione e si trovò riversa in sul sabbione. Più corto che quel salto era due dita, avviluppata rimanea col matto che con l'urto le avria tolta la vita, ma gran ventura l'aiutò a quel tratto. Cerchi pur altro furto le dia ita ad un'altra bestia come prima ha fatto, che più non è per riaver mai questa che innanzi al paladin l'arena pesta. Non dubitate già che ella non s'abbia a provvedere, e seguitiamo Orlando, in cui non cessa l'impeto e la rabbia perché si vada Angelica celando. Segue la bestia per la nuda sabbia e se le vien più sempre approssimando, già la tocca, ed ecco là nel crine, indi nel freno e la ritiene al fine. Con quella festa il paladin la piglia, un altro avrebbe fatto una donzella, le rassetta le redine e la briglia e spicca un salto ed entra nella sella e correndo la caccia molte miglia senza riposo in questa parte in quella, mai non le leva né sella né freno né le lascia gustar erba né fieno. Volendosi cacciare oltre una fossa, sozzopra se ne va con la cavalla. Non nocque a lui né sentì la percossa, ma nel fondo la misera si spalla. Non vede Orlando come trar la possa, e finalmente se la reca in spalla e su ritorna e va con tutto il carco quanto in tre volte non trarrebbe un arco. Sentendo poi che gli gravava troppo, la pose in terra e volea trarla a mano. Ella il seguia con passo lento e zoppo, dicea Orlando cammina, e dicea invano. Se l'avesse seguito di galoppo assai non era al desiderio insano. Al fin dal capo le levò il capestro e dietro la legò sopra il piede destro, e così la strascina e la conforta che lo potrà seguir con maggior agio. Qual leva il pelo e quale il cuoio porta de sassi che era nel camin malvagio. La mal condotta bestia restò morta finalmente di strazio e di disagio. Orlando non le pensa e non la guarda, e via correndo il suo camin non tarda. Di trarla, anco che morta, non rimase, continuando il corso ad occidente, e tuttavia saccheggia ville e case, se bisogno di cibo aver si sente, e frutte, carne e pan, purché gli invase rapisce. Ed usa forza ad ogni gente, qual lascia morto, e qual storpiato lassa, poco si ferma, e sempre innanzi passa. Avrebbe così fatto poco manco alla sua donna, se non s'ascondea, perché non discernea il nero dal bianco, e di giovar, nocendo si credea. Maledetto sia l'annello e tanco il cavalier che datole l'avea, che se non era avrebbe Orlando fatto di sé vendetta e di mill'altri a un tratto. Né questa sola, ma fosser pure stata in mando Orlando quante oggi ne sono, che ad ogni modo tutte sono ingrate, né si trova tra loro oncia di buono. Ben spero, donne, in vostra cortesia aver da voi perdon, poiché io vel chieggio. Voi scusarete che per frenesia, vinto dall'aspra passion, vaneggio. Date la colpa alla nimica mia, che mi fa star chi non potrei star peggio, e mi fa dir quel di ch'io son poi gramo. Sallo iddio se ella ha il torto, essa s'io l'amo. Non men son fuor di me che fosse Orlando, e non son men di lui di scusa degno. Cor per li monti, or per le piagge errando, scorse in gran parte di Marsilio il regno. Molti dì la cavalla, strascinando, morta com'era, senza alcun ritegno. Ma giunto ove un gran fiume entra nel mare, gli fu forza il cadavero lasciare. E perché sa nuotar come una lontra, entra nel fiume e surge all'altra riva. Ecco, un pastor sopra un cavallo incontra, che per abbeverarlo al fiume arriva. Colui, benché gli vada Orlando incontra, perché egli è solo e nudo, non lo schiva. «Vorrei del tuo ronzin», gli disse il matto, «con la giumenta mia fare un baratto. Io te la mostrerò di qui, se vuoi, che morta là, sull'altra ripa giace. La potrai far tu medicar di poi, altro difetto in lei non mi dispiace. Con qualche aggiunta il ronzin darmi puoi. Smontane in cortesia, perché mi piace». Il pastor ride e senz'altra risposta va verso il guado e dal pazzo si scosta. «Io voglio il tuo cavallo. Olà, non modi?» soggiunse Orlando e con furor si mosse. Aveva un baston con nodi spessi e sodi, quel pastor seco, e il paladin percosse. La rabbia e l'ira passò tutti i modi del conte e parve fier più che mai fosse. Sul capo del pastore un pugno serra che spezza l'osso e morto il caccia in terra. Salta a cavallo e per diversa strada va discorrendo e molti pone a sacco. Non gusta il ronzin mai fieno né biada, tanto che in pochi dì ne riman fiacco. Ma non però corlando a piedi vada, che di vetture vuol vivere a macco, e quante ne trovò, tante ne mise in uso, poi che i lor patroni uccise. Capitò alfine a Malega, e più danno vi fece che gli avesse altrove fatto, che oltre che ponesse a saccomanno il popol sì che ne restò disfatto, né si poté rifar quel nell'altr'anno, tanti ne uccise il periglioso matto, vi spianò tante case e tante accese, che disfe più che il terzo del paese. Quindi partito, venne ad una terra Zizera detta, che siede allo stretto di Zibeltarro, o vuoi di Zibelterra, che l'uno e l'altro nome le vien detto, ove una barca che scioglieva da terra vide piena di gente da diletto, che sollazzando all'aura mattutina gia per la tranquillissima marina. Cominciò il pazzo a gridar forte: «Aspetta!» che gli venne desio d'andare in barca. Ma bene in vano i gridi e gli urli getta, che volentier tal merce non si carca. Per l'acqua il legno va con quella fretta che va per l'aria i rondine che varca. Orlando urta il cavallo e batte e stringe e con un mazzafrusto all'acqua spinge. Forza è calfin nell'acqua il cavallo entre, che in van contrasta e spende in vano ogni opera. Bagna i genocchi e poi la groppa e il ventre, indi la testa e appena par di sopra. Tornare addietro non si speri, mentre la verga tra le orecchie se gli adopra. Misero, o si convien tra via affogare o nel lito africano passare il mare. Non vede Orlando più poppe né sponde che tratto in mar l'avean dal lido asciutto, che son troppo lontane e le nasconde agli occhi bassi l'alto e mobile flutto. E tuttavia il destrier caccia tra l'onde che andar di là dal mar dispone in tutto. Il destrier d'acqua pieno e d'alma vuoto finalmente finì la vita e il nuoto. Andò nel fondo e vi traea la salma se non si tenea Orlando in sulle braccia. Mena le gambe l'una e l'altra palma e soffia e l'onda spinge dalla faccia. Era l'aria soave e il mare in calma. E ben vi bisognò più che bonaccia, ogni poco che il mar fosse più sorto, restava il paladin nell'acqua morto. Ma la fortuna che dei pazzi accura, del mar lo trasse nel lido di setta, in una spiaggia lungi dalle mura quanto sarian due tratti di saetta. Lungo il mar, molti giorni all'avventura, verso Levante andò correndo in fretta, finché trovò, dove tendea sul lito, di nera gente esercito infinito. Abbiamo trasmesso la 18ª puntata dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino.